Ladies and gentlemen, introducing Gigi D'Agostino. I'm Wanna kill myself. 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that. I'm frightened, but I'm ready to love. I love. debbano rientrare per forza nei canoni di ciò che già conosce. Insomma, perché la mente umana tende a scegliere sempre e solo il sentiero che conosce già.

tu, la condena o tu, la condena. La condena o tu, la condena o tu, la condena o tu. Guarantee that every day I can survive.

sa dov'è. Attraverso i percorsi, suoni e discorsi. quando parlo mi perdo in approssimazioni. Tambourine, nicotine, patio, bazoo.